Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. I funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Eccoci qui, siamo ritornati, i funamboli sono in onda fino alle 11, alle 9.08 minuti, cara Veronica, ben ritrovata. Oh sole mio. No, eccola, romana, la romana a Milano vede il grigio, vede che questa giornata straordinaria cappa milanese. E si lamenta. Che giornataccia. Sei di quelli che dicono la cosa migliore di Milano per i romani è il treno per Roma? No, l'hai detto tu, non l'ho detto io. Te lo chiedo. Allora, siamo qui, cari amici, oggi abbiamo un... Sì, vabbè. Dai. Tu dici tre parole di una canzone. Ma non puoi competere con Pavarotti, però, no. Troppo, dici? Abbastanza. Intanto perdo il senso delle proporzioni, rimettetemi subito a posto. No, allora, io sulle note di Pavarotti voglio intanto dare un ringraziamento personale. Ci ha scritto una mail bellissima Alessandro, ci ha mandato una mail dicendo: voi non sapete io che cosa ho appeso da anni dietro la mia scrivania. Questa citazione: ci sono due specie di persone, ci sono quelli che vivono, giocano e muoiono, e ci sono quelli che si tengono in equilibrio sul crinale della vita. Ci sono gli attori e ci sono i funamboli. Questa citazione, caro ascoltatore, tu non lo sai, ma è tratta da Maxence Fermain, il libro Neve, che io e mia moglie abbiamo dato come bomboniera alle nozze. Quindi, insomma, un regalo che non potevi farmi migliore, caro Alessandro. Che bellezza. Capito. Questa cosa è nuova anche per me, non me l'avevi detta, che bellezza. Nostri ascoltatori. Allora dai, alle 9:09, cara Veronica, oggi abbiamo tanti temi di cui parlare, però... I giornali sono succulenti oggi, a me te lo ha dico. Colpito una notizia, Sicilia, poi no, non, per carità, non ci vogliamo accanire con la Sicilia, però sui giornali, Crocetta promette 80 euro in più ai 22.000 forestali, capite, tra poco si vota, io ho un suggerimento, caro Crocetta, perché non fai come il mitico Achille Lauro, sindaco di Napoli, che dava una scarpa prima e una scarpa dopo le elezioni, 40 euro adesso ai forestali e 40 euro dopo il voto, mi sembra un po' più onesta come cosa, no? Un po' più evidente, perché dai, 80 euro in campagna elettorale ai 22.000 forestali non si può sentire. Gli 80 euro ormai sono un must, no? 80 euro, va bene. Che si fa prima di? Si danno 80 euro. O 40 prima e 40 dopo il voto, non è meglio? Anche, lasciando, capito, il targhettino con scritto il resto si ritira dopo il voto. Achille Lauro lo faceva, le banconote strappate a metà. Mi sembra in maniera più... Almeno ti ammetti plasticamente che il motivo è quello. Però non vedo, insomma, un grande bluff nemmeno qui, eh. Diciamo che è abbastanza dichiarato. Abbastanza. Invece la notizia che ha divertito, si fa così per usare un eufemismo, ma in realtà fa più ridere, c'è un po' anche da piangere, è stata quella di Pontida. Hai visto che ieri sera era il trend topic su Twitter, il secondo hashtag. Ho detto: oddio, che è successo a Pontida? Sostanzialmente il sindaco di Pontida, sindaco leghista Luigi Carozzi, ovviamente leghista a Pontida, ci mancherebbe, ha proposto di fare dei posteggi, cioè di riservare dei posteggi alle donne, mamme, unicamente se cittadine italiane e europee, qualora siano incinte e appartengano a un nucleo familiare naturale. Questo significa che tutte coloro che sono cittadine extracomunitarie o anche nordiche, qualora fosse, o innaturali, gravide ma avendo messo al mondo il figlio con un nucleo familiare non naturale, non hanno diritto al parcheggio. Chiaramente la cosa è stata così grottesca che lo stesso Salvini pare aver storto il naso e la sera il sindaco ha fatto un'enorme retromarcia. A proposito di parcheggi, mi sembra il classico tentativo ormai in questo paese un po' bizzarro e confuso di guadagnare i 15 minuti di celebrità. Per un quarto d'ora di sé, ma che poi ormai c'è questo sistema di dire una cosa, spararla gigantesca e il giorno dopo rettificare dicendo ci si è sbagliati, sono stato frainteso, io non volevo dire questo. questo. Quindi, insomma. No, voleva dire proprio quello, ma meno male che qualcuno l'ha fatto rinsavire. Chissà se rinsavirà il sindaco di Pontida su questo aspetto. Alle 9:12 minuti, noi però torniamo con gli ascoltatori 800 24 00 24. A partire da che cosa? Lo Ius Soli. Ehi, sei i miei fratelli sono afrofieri, magrebe cinesi, filippini, con i piedi quel sangue d'altri paesi. Chi ha la madre che lavora nelle case di ignoranti, abbandonano le loro sole in braccio alle badanti. Gente stupida rimasta ancora al medioevo, li sveglio di notte, sono l'incubo dell'uomo nero. Se il futuro è nostro, lo vogliamo in esclusiva. Stanchi di elemosinare diritti e metterci in fila. Da Palermo a Torino scoppierà un casino, se l'Europa è un'altra storia, se Roma non è Berlino. È la paura di qualcosa. Su questo flow potete vedere Veronica Gentili in diretta su Facebook, che, come dire, non so i termini giusti, reppa, ecco, diciamo. Il termine giusto forse lo potremmo chiedere, lo possiamo chiedere sicuramente a colui che ha scritto queste note. È Amirissa, è un rapper romano anche abbastanza famoso nell'ambiente, ha anche scritto un libro di recente per Chiare Lettere dal titolo Vivo per questo. Il sottotitolo è chiarissimo, perché Amirissa nel sottotitolo dice: non mi devo integrare, io sono nato qui, non sono mio padre, non sono immigrato, non sono terrorista, non sono un rifugiato, insomma sono un italiano. Amirissa, buongiorno. Buongiorno. E grazie di essere qui ai Funamboli. Insieme a lei c'è Flavia Perina, che scrive sull'inchiesta. Ben ritrovata Flavia e buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora Amirissa, perché questo? Intanto Amirissa rappresenta un po' diciamo la cosiddetta generazione 2, no? La seconda generazione. Esatto, seconda generazione, cioè figli di immigrati ma perfettamente italiano. E questa è una battaglia che Amirissa vuol dire, cioè io mi chiamo Amirissa e sono italiano. Perché secondo lei è ancora dura accettare questa cosa? Ma è questione di tempo, ci vorrà ancora un bel po' di tempo. Insomma, quando ero piccolo io andavo a scuola, ero tra i pochissimi bambini che c'erano in una scuola che avevano i genitori stranieri. Oggi basta andare in una qualsiasi scuola e rendersi conto di quello che è già l'Italia. E quindi, insomma, sarà sempre più normale avere ragazzi italiani che si chiamano Amir o che hanno nomi stranieri, hanno anche magari a livello fisionomico una faccia, se vogliamo dire, diversa. Ma guardi, mia figlia ha fatto le elementari, più o meno aveva, non dico metà italiani e metà figli di stranieri, di cui alcuni sono già italiani, ma insomma più o meno è così. Sì. Amir, tu parli di una fase di transizione, giusto? Cioè come se questa fosse questa epoca storica fosse un interregno tra una fase precedente e un futuro che verrà in cui tutto questo sarà normale. Ma io penso che è già normale, cioè il fatto è proprio questo, che parliamo di qualcosa che deve avvenire quando, insomma, l'abbiamo appena detto, è già qualcosa sotto gli occhi di tutti. Basta andare in una qualsiasi città italiana e vedere quello che c'è in strada. Ci sono gruppi di ragazzi che crescono tutti insieme e probabilmente tra di loro ci sono ragazzi che hanno i genitori italiani e altri che hanno i genitori che vengono da altri paesi. Quello che succede in tutti i paesi europei e in tutto il mondo. Il punto però, e secondo me anche su cui coinvolge gli ascoltatori, l'800 24 00 24, e chiamiamo anche in causa Flavia Perina, faccio un po', come dire, quello che rompe le uova, cara Veronica, a dire... Vai, rompi. Allora, sullo Ius Soli, sappiamo che c'è un problema politico e questo, adesso Flavia ce lo spiega, è un problema abbastanza grande perché il PD dice non abbiamo i numeri, allora se portiamo questa legge al Senato, questa legge viene bocciata, o rischiamo questo. E Del Rio si arrabbia, insomma c'è una spaccatura politica. Però c'è anche una questione, io la pongo in maniera, prima discutevamo con Veronica, mi chiedo Flavia, ma noi sappiamo davvero quanti figli di stranieri sono davvero intenzionati o interessati ad avere uno Ius Soli un po' più veloce invece della procedura che c'è adesso? Beh, noi sappiamo con esattezza che ci sono 700.000 ragazzi minorenni tra le varie categorie interessate da questa legge, che non è soltanto Ius Soli, è anche Ius Culture, premia anche in qualche modo con la cittadinanza chi è arrivato in Italia da piccolissimo e ha fatto tutte le scuole da noi, e sono circa 700.000, non è un numero enorme, sono per lo più persone, come giustamente diceva ora non mi ricordo Amir, il nome, Amir, ecco, come diceva Amir, che sono, insomma, si sentono perfettamente italiani, non hanno mai conosciuto il loro paese d'origine, in molti casi non ne parlano neanche la lingua, e l'Italia era davanti a un bivio: o farli crescere da stranieri in patria e dargli la cittadinanza comunque a 18 anni, perché queste sono persone che a 18 anni potranno chiedere, certo, oppure farli crescere da italiani come si sentono. E c'era questa, c'è uno slogan molto antico che viene un po' dalla Francia, che diceva la Francia chi l'ama, è la stessa cosa, l'Italia chi l'ama, queste sono persone che amano l'Italia, hanno sempre vissuto qui e secondo me il problema vero non è politico, è che l'Italia tende a essere sempre in ritardo sulle cose. Le cose prima succedono e poi vengono regolamentate. Ci sono fenomeni in Italia, non so, siamo stati uno degli ultimi paesi ad avere leggi efficienti sul divorzio, sui diritti civili, su cose sulle quali tutto il resto d'Europa era già andata avanti da vent'anni. E noi abbiamo abolito il matrimonio riparatore in caso di stupro nell'81, per dirne una. Flavia, ecco, un altro degli aspetti interessanti su questa cosa qui è il fatto che l'Italia è rimasto uno dei paesi più iniqui, se vogliamo, perché prevale lo ius sanguini rispetto allo ius soli. Cioè, noi sappiamo che ci sono tutta una serie di persone che possono, situazioni anche assurde, no? Per cui lontanissimi discendenti di emigrati italiani che si possono trovare ovunque, non hanno nessuna difficoltà a chiedere la cittadinanza, pur certo, non parlando la lingua, non pagando le tasse certo, qui. Mentre no, ci sono persone che invece sono nate e cresciute qui e che invece trovano delle enormi difficoltà. Appunto, questo è il ritardo delle nostre burocrazie politiche che non osano mettere mani su questo tipo di faccende, per cui per paradosso noi possiamo avere trisnipoti di italiani emigrati in Argentina che da pensionati rientrano in Italia, si iscrivono al nostro sistema sanitario, quindi senza aver mai pagato una lira di tasse in Italia, certo, approfittano dei vantaggi italiani, e abbiamo gente che lavora in Italia da tutta la vita e paga le tasse in Italia, che invece non è integrato come cittadino. Ma è una stupidaggine. Sì, che è più un privilegio di stirpe in qualche modo. Privilegio, cioè tutto questo non è che succede perché ci sia neanche un ragionamento sul privilegio, sul distirpe, succede per lo stesso coraggio riformista delle classi dirigenti. Poi non sì, osano affrontare questi problemi perché hanno paura di perderci delle stirpe. Ma è chiaro, è molto più semplice dare appunto gli 80 euro ai forestali, voglio dire, lo schema. E poi lo non schema. Mi chiedo perché 80 e non 800. Vabbè, punto. No, possiamo perché 80? Siamo perché? 800. Non no? Ci sono, però ci stanno lavorando. Ma non ci sono, cioè, si trovano. No, ma voi scherzate, ma quando hanno chiesto, ma la copertura di questa spesa è ancora da valutare, hanno risposto, nel senso che bisogna... ne possono promettere anche 800, no, ma perché 80 pare che sia una cifra così evocativa, evocativa. Oltretutto pare che sui giornali di oggi si dica che il problema principale del Partito Democratico è che è stato rilevato che perderebbero 2 punti percentuali nei sondaggi di consenso qualora si approvassero i soldi. È un punto da non sottovalutare per chi fa politica. Scusate, se posso, però se intervengo, le stesse cose io che sono purtroppo piuttosto grandicella, le ho sentite dire all'epoca del divorzio, quando si diceva l'Italia, figuriamoci, è totalmente contraria al divorzio, poi si è fatto un referendum e si è visto che non corrispondeva alla realtà. All'epoca dell'aborto la stessa cosa, il paese non è pronto, nessuno lo vuole, l'opinione può vedere. Questo però, Flavia, per te che hai fatto il referendum, si è scoperto che i sondaggi e la percezione della politica non corrispondeva alle opinioni autentiche dell'Italia. Però tu hai fatto politica e quindi questo lo sai. Vorrei tornare per un attimo da Amirissa per capire, perché ieri siamo rimasti molto colpiti, a me, io sono rimasto colpito, ho riflettuto su un ascoltatore che ci ha chiamato, rumeno, 4 o 5 figli, adesso non ricordo, Veronica, ci ha chiamato e ha detto, ma io posso anche diventare italiano, o meglio i miei figli diventano italiani, però io sarò sempre bollato, tra virgolette, come il rumeno, e quindi che mi frega di avere scritto sul passaporto italiano? Cioè non è quello che mi cambia poi la condizione di vita. Ma lui è un è un immigrato, è proprio quello che ho spiegato, il pezzo che tu hai letto del mio libro, quella è una mia canzone che si chiama Non sono un immigrato. Certo. Cioè, pensa che ho dovuto scrivere una canzone per farlo capire. Cioè i problemi che ha una persona che arriva da un altro paese, lascia una cultura, uno stile di vita e si deve, come si dice, integrare, non sono le problematiche che abbiamo noi. Se io sono nato qui, ho sempre vissuto qui, come ha detto, non mi ricordo il nome, non sono mai stato nel mio paese d'origine, nel paese di mio padre, non il mio. Sì. Nel paese d'origine di mio padre. Che è l'Egitto? L'Egitto. Io mi sento italiano, amo l'Italia e non mi sento neanche italo-egiziano. Io mi sento italiano. Tutto qui mi sembra molto semplice. Chiaro. Sentiamo, c'è un'ascoltatrice, Carla da Roma. Buongiorno Carla. Sì, buongiorno, io volevo esprimere la mia dicendo che a mio avviso, dando questa informazione, diciamo, dello Ius Soli, è come dire un incentivo a, è come la Germania, no? Che qualche anno fa, insomma, ha detto ma venite, venite, quindi sono partiti a centinaia di migliaia, insomma, quindi ovviamente dando questo messaggio faranno sempre più figli. e ci sarà sempre bisogno, maggior bisogno di assistenza. È un incentivo, no? Lei dice un incentivo per far venire più immigrati. È un incentivo, sì, poi avranno bisogno sempre più di assistenza. Guardi, sono però, migranti economici, sì. Carla, la questione lo ha scritto ieri Flavia Perina molto chiaramente sull'inchiesta, ma è un dato di fatto. Poi capisco che nella politica ci sia tutto, ma questo provvedimento non è per nulla legato agli sbarchi a Lampedusa, agli sbarchi in Sicilia, che è un altro problema molto molto serio certamente da affrontare, insomma. Però non sono collegate le due cose, cioè qui stiamo parlando di figli di immigrati che sono regolarmente in Italia e pagano le tasse. Certo, però l'ascoltatrice dice però sono incentivati a venire qui in maniera anche regolare, fare figli. E Veronica, Alessandro, vogliamo anche dire però è innegabile che insomma che chi pensa a un certo tipo di italianità non piace questa idea di multiculturalismo sfrenato. C'è chi parla di sostituzione etnica e da questo punto di vista bisogna rassicurarli, perché tanto quelli che sono qui a 18 anni compiranno appunto la loro maggiore età e a quel punto saranno comunque cittadini italiani. Ma invece lo Ius Soli non ha niente a che fare con tutti coloro che soggiornano qui per motivi di studio o formazione professionale, tutte le persone che sono qui per protezione temporanea o motivi umanitari, tutti quelli che sono qui con la protezione internazionale, cioè l'immagine della donna che arriva col barcone, fa un figlio sulla spiaggia e il figlio diventa italiano, non è così, per cui in realtà questo nesso di conseguenzialità diretta tra l'immigrazione, i migranti economici e tutto quello che si immagina con il fatto dello Ius Soli non sono minimamente correlati. Però c'è questo aspetto, Flavia Perina, di molti italiani che non vogliono accettare passivamente questo multiculturalismo che nei fatti sta avvenendo, è un dato di fatto. E come la mettiamo? La mettiamo così: primo, non è multiculturalismo. Io sfido l'ascoltatrice a distinguere tra la mia voce e quella di Amir, che di noi due ha dei genitori stranieri. Allora, chi è lo straniero tra noi due? Io e lui. Parliamo esattamente allo stesso modo, con la stessa cadenza romana. Lui è di Torpignattara, non so. Torpignattara, io sono di Roma Nord, quindi possono cogliere le differenze, diciamo, differenze di quartiere. C'è un problema di zone, sì. È un problema di zone, ecco, quindi non è multiculturalismo, la cultura è la stessa, la mia e la sua. Abbiamo genitori, i miei nonni venivano, non so, dal nord Italia, anzi dall'Austria addirittura, i suoi nonni venivano dall'Egitto, ma non è che queste differenze si colgono più. Non è multiculturalismo, questa è la leggenda da sfatare. Quanto a l'incentivo l'incentivo non è in queste cose. Se fosse in queste cose, questi profughi si dirigerebbero verso l'America, dove c'è lo Ius Soli perfetto, e tu entri dentro quel paese, nasci lì e sei americano. In America è così, nasci sul suolo americano. Appunto, ci sarebbero altre rotte, altre cose. E l'esempio della Germania forse è più sbagliato in assoluto. La Germania ha trasformato, ad esempio, l'accoglienza ai profughi siriani in un grandissimo fattore di sviluppo che ha migliorato l'economia, tant'è che la Merkel, che ha aperto le porte ai profughi siriani, sta per essere rieletta con le fanfare e col 15% di vantaggio rispetto ha fatto anche un po' di retromarcia poi lì c'è anche una questione di apertura a un'immigrazione selezionata, qualificata, certo. Che qualificata, è quello che bisognerebbe fare, l'immigrazione qualificata. La politica deve saper governare i fenomeni, non subirli. In Italia li stiamo subendo con buona pace Juncker, che dice che noi siamo bravi, siamo bravissimi, abbiamo salvato tutto. Grazie Juncker, fate qualcosina anche voi Europa. Su alcune cose poi ci ha bacchettato anche, certo. Ci ha fatto solo lodi. Volevo chiedere una cosa ad Amir. Ad Amir, infatti, sulla seconda generazione tende ad esserci questa equazione molto spesso, no? Che terrorismo e seconda generazione siano legati, perché sappiamo che molti fenomeni che si sono verificati, attentati, molti venivano dalle balneo parigine, per esempio, dalle periferie, ed erano cresciuti, non erano riusciti ad integrarsi come sarebbe stato opportuno, e quindi alcuni sono diventati terroristi. Rispetto a questo, tu che cosa pensi, Amir? Erano dei pazzi. Prima di tutto erano dei pazzi, perché comunque non c'entra niente. Non sono d'accordo con questa equazione, perché se non riesco ad integrarmi, la mia reazione la mia reazione, allora non mi integro e quindi vado a farmi esplodere. Come dico io, no, con un paradosso, non ho mai visto operai delle periferie di Torino non integrati negli anni di lavoro alla Fiat, che per questo si sono fatti esplodere. Lì c'è un problema con l'Islam, io lo dico, non è il momento di aprire questo dibattito. Poi quello che posso dire è che quando si parla di seconde generazioni, e io conosco tanti ragazzi di seconda generazione, veramente è difficile fare una statistica, ci sono tantissime storie diverse, c'è chi non è religioso, c'è chi come me, per esempio sono cresciuto con la religione cattolica, che era quella di mia mamma, perché sono cresciuto con mia mamma, più a contatto con mia mamma che con mio papà, c'è chi è semplicemente un religioso ed è pacifico, quindi vi posso dire solo una cosa, che quando vado a prendere la metropolitana, avevo letto prima, questa cosa, è stato un attentato, ho la stessa paura di tutti gli altri, ho la stessa paura del mio amico che si chiama Mario e che si chiama Marco. Questo lo possiamo vedere tutti quanti, anche il giorno dopo degli attentati che ci sono stati in Spagna, tanti ragazzi musulmani erano in strada anche loro comunque. Guarda Veronica, che c'è un ascoltatore, Valerio ci chiama da Roma, mi dico tra l'altro essere un giovane, un ragazzo. Valerio, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Quanti anni ha Valerio? Buongiorno. 22 anni. Bene, c'è anche il suo parere. Guardi, del discorso, credo che la cosa sia molto più complessa, perché oggi noi ragazzi viviamo una situazione in cui non esiste più un ideale o magari più un principio su cui vivere. Questo ci accomuna anche agli stranieri. Rimane il fatto che, secondo me, lo stesso problema del terrorismo è legato anche a un fatto di forse libertà calcolata in una maniera diversa, cioè perché per rispecchiarsi in un popolo bisogna seguire le proprie leggi, ok? Seguire le leggi del popolo in cui il cittadino straniero convive. Però penso che già questo fatto in cui a volte la stessa Italia chini la testa non fa vedere abbastanza la nazione, non fa riconoscere neanche gli stranieri nella nostra nazionalità. Il fatto del terrorismo e non riconoscersi neanche nella nostra generazione e riconoscersi in un valore che, per quanto sia sbagliato, dà un senso di appartenenza. Valerio, questo è il suo parere, va bene. La ringraziamo Valerio, io su questo, sul terrorismo, però non è il momento di aprire un dibattito sul terrorismo, perché dobbiamo andare in pubblicità. Islam, non Islam, quanto è legato al terrorismo, qui apriamo un capitolo per cui poi... Io penso di sì, ma vabbè, è una cosa, come dire, troppo ampia in questo momento. Quanto sia poi l'aspetto appunto della follia individuale o quanto sia legato alla religione è un discorso molto più complesso sul quale potremmo iniziare... Chi lo sa, lo faremo al prossimo attentato, perché purtroppo dobbiamo abituarci, lo dico speriamo con molta amarezza, di non doverlo fare. È un mondo in cui ci colpiranno ancora. Ringraziamo Flavia Perina, ringraziamo Amirissa, ricordiamo il suo libro Vivo per questo, editore a Chiare Lettere, se volete comprarlo. E andiamo un attimo in pubblicità e poi i funamboli ritornano, ma sì. State ascoltando un programma offerto da carserver.it. Scopri il noleggio a lungo termine che ci mette la faccia. I funamboli. Qui alle 9:32 minuti, vedi Veronica come il tema ha scaldato i nostri ascoltatori, sono tanti che ci stanno chiamando al 800 24 00 24. C'è per esempio Angela da Monza, buongiorno. Buongiorno e grazie per questa bella trasmissione. Un saluto a Oscar Giannino, che stamattina non c'è, però come è no, mio idolo. C'è fino alle 9 e poi io purtroppo vado, lo sento più tardi. Lei ascolti funamboli. La rassicuriamo, io l'ho visto passare. Sì, fisicamente, proprio io l'ho toccato, gli ho tirato anche la barbetta. Sta bene. Allora, io il mio intervento è praticamente che trovo molto molto giusto che un bambino che nasce in Italia è italiano. Quindi, cioè lei vorrebbe lo ius soli puro, come in America, puro. Quando uno nasce, cioè come il ragazzo di prima che dice io non conosco la mia nazione, non so com'è, eccetera. È diverso, la mia critica è al governo italiano in quanto non ha gestito bene il tutto, ovvero le famiglie italiane sono sempre più penalizzate. non fanno figli. A me quando vanno, cioè, fanno certi dibattiti, perché non si fanno figli in Italia? Cioè, sono anche abbastanza banali, perché non vengono aiutate le famiglie. Cioè, quando si fa questo è vero, non ci sono sgravi fiscali, non c'è il quoziente, esatto, familiare, esatto, non ci sono aiuti, non ci sono, ci sono i nidi che costano come dei salassi, i mensili, cioè il discorso dei 6.000 euro nel 740 che devono avere, gli italiani non l'avranno mai il 6.000 euro, perché comunque bene o male si lavora in due, comunque sarà, non c'è la, cioè il lavoro comunque anche di un operaio non sarà mai sotto i 6.000 euro. Viceversa, gli ex, cioè i musulmani, gli extracomunitari, o per il lavoro nero, o perché qui o perché là, loro rientrano sempre in quella fascia dove vengono aiutati. Lei dice, lei vorrebbe un po' più di aiuto anche per gli italiani, gli italiani. Ragazzi, non so neanche più come definirli adesso, aspetti Angela, italiani, perché Amiris è italiano, cioè gli italiani, italiani, lo diciamo due volte, italiani. No, nel senso che chi ha cioè i diritti devono essere uguali, sì. Se lui è italiano è giusto che, ripeto, però lei è un po' contraddittoria, perché dice da una parte è per lo ius soli puro, cioè nasce uno in Italia ed è italiano, e quindi a quel punto, anche se è figlio di un cittadino del, non so, del Bangladesh, ha diritto ad avere gli sgravi fiscali. No, forse mi sono espressa male. Cioè, io vorrei, ripeto, anche per gli italiani, sono aperte le scuole, gli esempi banali. Ho un'amica che ha i nipoti che vanno nelle medie, uno prima, uno seconda, e sono 500-600 euro di libri. Cioè, una famiglia italiana fa fatica. No, è chiaro. Lei è dice chiaro, facciamo lo ius soli, ma nel frattempo occupiamoci anche di tutto il resto e di mettere negli altri in condizione di poter vivere con delle risorse decenti. Ma è chiaro, la posizione di Angela è chiara. Allora, tanti ascoltatori ci stanno chiamando, però noi vogliamo per un attimo parlare anche di un altro tema. Cara Veronica, tu sei di Roma, secondo me se domani fai un giro al Parlamento troverai delle casse di champagne o spumante, visto perché che siamo italiani. È vero che mi sono lamentata a sole mio, sì. Però è anche vero che qui non mi aggiro e trovo parlamentari ad ogni piesso spinto, quindi anche questo va valutato tra i pro e i contro. Perché domani è il 15 settembre. Oggi è il 14, sabato è il 16. E che succede il 15 settembre? Domani è il giorno in cui scatta finalmente quell'agognato, penso da alcuni parlamentari, limite oltre il quale scatta il vitalizio per chi... No, ma a te Peter Bescapè non arriva niente. E scatta la ola! Il vitalizio per chi è alla prima legislatura. Ora i vitalizi sono molto cambiati, cioè queste persone riceveranno, credo, a 65 anni un qualcosa tipo 600 euro come vitalizio. Però, al mese. Però noi sappiamo che questo argomento ci ha fatto compagnia durante tutta questa legislatura e tutte le volte che questo Parlamento, che funambolo, lui sì veramente funambolo, che si è retto in situazioni veramente improbabili, tutti i malfidati dicevano grazie che regge, vogliono arrivare alla fine della legislatura per maturare il vitalizio. E ci siamo arrivati. Però vogliamo salutare il nostro amico Maurizio Bianconi, gruppo misto, uno che sui vitalizi battaglia sempre perché ha una posizione molto chiara e netta. Intanto Bianconi, a quante... buongiorno, ciao Bianconi. Buongiorno. A che legislatura sei? No, tu... No, io non ci rientro in questa. Cioè, nel senso che l'hai già maturato il vitalizio. L'ho maturato, ma col contributivo. Col contributivo. Cioè, quando io finivo prendevo 1.100, 1.200 euro forse. Ma c'è clima di... Di tappi che saltano domani alla Camera o no? No, io penso di no, perché gli unici che hanno il reale beneficio da questo 15 settembre, dato e non concesso che ci sia da fare salti di gioia per 600 euro che prenderanno fra 20 anni, e sono i grillini, perché sono tutti quelli di prima legislatura, sono tutti loro. Quasi, sono 600 tra Camera e Senato, quindi no, ci sono anche tanti del PD, tanti, sai che ci sono... Ma sì, insomma, però quelli grillini sono al 100%. I grillini che sono... I grillini sì, essendo entrati per la prima volta, quindi sono 200 e di questi 600... Oltre 200 e passa, 250 penso. Vabbè, ma non vedi un clima di... gli unici a essere soddisfatti sono loro. Ma nessuno che festeggia, non ci credo. Anzi, sono tutti... Cioè, non è più un vitalizio di interesse, essendoci una legge contributiva. Beh, io non so come spiegarlo. Buttali via. Meglio che niente. Non è che sia una somma allettante. No, buttali via, però a 65 anni sapete avere 600 euro. Uno che ne ha 30 oggi, 32, e gli dicono che fra 33 anni prenderà 600 euro di oggi, perché non sono soggetti a rivalutazione. Non è che è lì che fa che no, schizza di gioia. Uno che ne ha 55-60 ce ne ha 10. Però se uno è arrivato a 55-60 o col suo lavoro o facendo il deputato, non penso che queste 100 euro siano risultive. Non la vedo così drammatica. Quindi è avventato pensare che dal 16 settembre può finalmente cadere il governo, perché ormai il vitalizio è maturo. Ma finalmente no, mettere, io non ti conosco. È un bel peperino la Veronica Gentili, quando la incontri a Roma. Mettere in relazione la caduta del governo con la maturazione dei vitalizi è un po' una coglioneria, ma di quelle mica da ridere. L'aretino Bianconi. Io mi limito a fare la portavoce dei più maliziosi che hanno sostenuto questo. Però Bianconi l'hanno pensato quest'estate in tanti. Adesso non è che siamo solo due che diciamo coglionerie. E il livello anche che ha dato il Parlamento di sé ha portato a questo pensiero che è un po' da imbecilli. Forse il problema è un po' quello. Sarà da imbecilli, però oggi c'è una storia sui giornali di un senatore Cuomo del Partito Democratico, che è anche sindaco di Portici, quindi per incompatibilità. Ecco, spieghiamolo alle ascoltatori. Per incompatibilità deve scegliere e pare che stia traccheggiando, magari sceglierà di fare il sindaco, ma c'è il presidente del Senato Grasso che gli ha detto: scegli oggi, diciamo, casualmente oggi, non domani, che domani scatta il vitalizio. L'essere o non essere di Cuomo è durato fino al momento della maturazione del vitalizio, quindi sarà anche una coglioneria, ma essere un po' sospettosi, ma no, ma proprio rispetto al governo. Il governo è una provocazione, però da tutte le parti. Sì. Voglio dire, non cioè è tra serio avere 600 un governo stia in piedi. Ma... per no fare i vitalizi, è un po' da teste di cazzo. Adesso Bianconi, è un po' svilire. Ho capito, però Bianconi, il governo Bianconi Meloni è vivo e verde e resisterà fino in fondo. Perché così vuole Renzi, così vuole Berlusconi, così vuole la Merkel. Vede invece che Maria Antonietta ci scrive: ci voleva brava Gentili, una donna finalmente per dire ogni tanto la verità. No, ma non riapriamo questo dibattito. Però Bianconi, cioè, non puoi neanche far passare che avere a 65 anni 600 euro o non averli è uguale. Cioè, se no, il deputato, e quindi avrà un bet discreto, io penso che non è che gli cambiano la vita, ecco. Certo che se fossi un disoccupato a vita, 600 euro sulla pensione sociale, e quindi viene bene. Corrisponde alla pensione sociale. Il problema Bianconi sarebbe... non ha un cazzo di niente, non ha messo una lira da parte, 600 euro Bianconi, ma ci sono milioni di italiani che ti stanno ascoltando, pensionati, che vivono con 600, 700, 800 euro al mese. Ma il mondo è fantascale, Milan. Cioè, fare questo discorso non è neanche populista, è proprio da imbecille. Quindi tu testa di e io imbecille. Chi è che viene in Parlamento sono 1000 persone su 60 milioni di italiani. Gli eletti. È impensabile che non appartengano, ai, come posso dire, agli strati più disagiati della popolazione. Stavi dicendo di peggio. Ai poveracci. Poveracci. Se c'è 2 euro che intervengono sui redditi di queste 1000 persone su 60 milioni, hanno la caratteristica dell'indifferenza. Dopodiché, 600 euro in assoluto sono importantissimi per i pensionati. Lei dice, Bianconi dice per i parlamentari, che si immagina che sono, diciamo così, la categoria un po' la creme della società. Non è solo la creme, chi è che fa l'avvocato, chi è che fa l'impiegato comunale, insomma, i professionisti, quella che è la classe dirigenziale, la classe dirigente, altre cifre rispetto alla gente normale. Hanno tutti più o meno. Sì, insomma, persone a cui 600 euro non dovrebbero fare una differenza. Va bene, Maurizio. Ma domani però controlla se qualcuno stappa lo spumante. Grazie. Ma te fa le cose più serie, queste cazzate, non ne parlare. Allora. Si guadagna. Ecco. Beato Bianconi, ecco, che può usare tutte le parolacce che vuole. Io invece sto qui in onda e non le posso usare, se no sai che festa che facevamo. Questa è quella. A me mi pagano, a lui no. Infatti, su questo ci pagano ci posso stare 600 euro al mese. Per me, mo le scrivo le parolacce. Dai, no, no, ma Bianconi, Bianconi così. Ma no, ah, ti dobbiamo salutare, Bianconi. Però c'è questa notizia: pare che Renzi, uno dei suoi grandi avversari politici, si candidi ad Arezzo, nella tua Arezzo. È l'ignorante, il somaro. No, no. Il Senato è regionale, non è mica locale. Alla Camera, alla Camera. E lo conosci. Alla Camera, forse. Bianconi, no, noi non ci conosciamo. Si candidava al Senato. Vabbè, ma al se si candida al Senato, ha detto: io mi candido al Senato qui. Come cazzo fa? Non, basta, Bianconi, con le parolacce. Basta. Bianconi, basta, lei deve fare l'attore, ci pensi? Secondo me ha sbagliato tutto. Ha un'età da vitalizio. No, è una battuta. È una battuta. Ha un'età da vitalizio. È una battuta. Allora, dai, ringraziamo Maurizio Bianco. Ho sentito tante di quelle parolacce, Veronica, mi sento meglio adesso. Veronica Gentili si è tolta la giacca su Facebook, c'è la diretta Facebook in video, e andiamo da Alessio da Cuneo. Alessio, buongiorno Alessio da Cuneo. Tiraci su Alessio, per favore. Buongiorno, ma sì, è difficile in questi momenti. Comunque, complimenti e grazie a Radio 24, tutti compresi, che mi tenete una compagnia meravigliosa. Ecco, volevo intervenire sullo Jussoli. Sì. Dicevo, mi sembra anche giusto in parte che si possa dare questa possibilità. E purtroppo io dico che però quelli di fede islamica mi fanno un po' paura. Perché io ho visto che Van Gogh è stato ammazzato da un bimbo che era già nato in Olanda. Theo Van Gogh, spieghiamo, e non Van Gogh. Abbiamo pensato tutti al pittore, all'orecchio. Il papà era già nato forse in Olanda. Questi qua purtroppo usano la religione come fede di vita civile, quelle che noi, la religione dovrebbe essere una cosa a parte. E sono difficili da integrare. Vediamo che in Inghilterra il sindaco di Londra musulmano, la maggior parte dei componenti del governo di Londra è fatto da musulmani, ti danno la ragazza cristiana in madre a una famiglia musulmana, vorrei vedere se l'assistente sociale... Questa notizia è stata in parte smentita, come una semibufala. Era vero e poi è stata... semibufala. No, è una semibufala. Cioè, comunque, secondo me questi personaggi, io parlo quelli di fede islamica, ha paura, va ci bene. Invadono grazie alle nostre leggi e ci comanderanno con la loro legge. Alessio, la vedo purtroppo così. Lei la vede così, grazie. È una grazie visione molto, molto cupa, ma insomma è una visione, è una visione del nostro ascoltatore. Io non avrò più occasione di patirla, credo, perché ho 69 anni. Va bene, però è il suo timore, Alessio. Io le auguro che abbia bisogno, abbia possibilità di patirla. Soprattutto auguriamo a tutti noi che non accada. E andiamo al traffico, perché poi c'è il funambolo Leonardo Manera qui che si sta girando per gli studi, tutto un po' teso, tutto un po' nervoso, tutto un po'... E lo Jussoli l'ha agitato. O cammina, Bianconi cammina avanti e indietro. Tra poco. Dovevamo chiamare Manera. Faircam Air and Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta i funamboli. Allora, devo dire che il buon Marcone Agnoletti che ci ascolta e che salutiamo è il portavoce di Renzi, avrà sentito il suo amico Bianconi, dice allora, appunto si candida in Toscana, quindi anche ad Arezzo se si candida al Senato. No? Vabbè, ma non entriamo in questa diatriba adesso, che c'è tempo per la candidatura di Renzi. Buongiorno cari funamboli! Caro Leonardo, ciao! Ragazzo, hai salutato Bianconi, l'hai incontrato qui fuori? Sì, no, io Bianconi personalmente lo conosco, visto che Veronica era molto coinvolta. Hai visto? E sono stata brava. Non mi dite che non mi sono tenuta, poi mi dite che mi accaloro. Invece sono stata buonina. Sei stata mentalmente stimolata da Bianconi, diciamo. Hai così. Visto? È molto stimolata. E io invece, allora, caro Alessandro, sono un po' smarrito stamattina, perché mi sono reso conto anche ieri che non c'è più il limite tra il vero, il finto, le cose alle quali le persone credono. Ah. Ieri, per scrivere una facezia su Facebook, ho messo una cosa sul presunto stupro dei carabinieri, che avevano dichiarato non ci siamo accorti che erano ubriachi, avevano detto, giusto? Esatto, questa era la loro versione. Per scrivere una facezia ho detto nuova dichiarazione ai carabinieri, hanno dichiarato non ci siamo accorti che stavamo avendo un rapporto sessuale. E c'è stata una serie di reazioni delle persone che hanno detto: ma è possibile, veramente siamo arrivati, abbiamo toccato il fondo, era evidentemente una facezia, no? E invece poi molti ci credono, perché è chiaro che insomma... ormai non si capisce più qual è il confine tra il vero, il falso, il finto. Ma c'è un'altra notizia che mi ha colpito ieri, che gira voce, ma forse solo una voce, che la ministra Fedeli vorrebbe inserire nelle scuole come strumento di insegnamento lo smartphone, giusto? Ah sì, l'abbiamo letto. Che può sostituire i libri, le enciclopedie, può sostituire lo zaino, che è una cosa bella, invece che portare sulle spalle lo zaino carico di libri e che causa lombosciatalgie infantili, porti sulle spalle lo smartphone. Oppure lo tieni in tasca e lo zaino e la cartella diventano oggetti vintage che il ragazzino può rivendere al mercatino facendo anche due soldi, quindi è una cosa bella, credo, no? Ma non solo, con lo smartphone a portata di mano il ragazzino può anche filmare il professore quando sgrida un alunno, così poi i genitori dell'alunno sgridato possono denunciare il professore, che poi può far ricorso al TAR, così si sviluppa il circolo virtuoso democratico italiano. Il mitico TAR, sì. Quindi anch'io sono favorevole allo smartphone in classe, ma ha un problemino lo smartphone, secondo me. Cioè? Che è un oggettino bello, alla moda. Simpatico. Il mio smartphone, per esempio, è molto più simpatico di molte persone che conoscono, perché lui è sempre disponibile, mi aiuta per qualsiasi cosa io abbia bisogno ed è così utile che a un certo punto non riesco più a farne a meno. Quando mi alzo di mattina vorrei godermi una bella colazione, invece non riesco a godermela fino in fondo perché lì davanti vedo il mio amico simpatico e mi viene voglia di vedere le notifiche di Facebook, dove i miei amici di Facebook mi dicono cosa stanno mangiando come colazione. Quando vado al lavoro in metropolitana vorrei dare un'occhiata al giornale per vedere cosa succede nel mondo, invece il mio amico simpatico è lì, che mi fa vedere tutte le bufale che circolano in rete, che sono molto più divertenti delle notizie vere. Quando lavoro vorrei lavorare, anche il mio capo lo vorrebbe, ma il mio amico simpatico è lì a ricordarmi quante super gnocche ci sono su Instagram. E quando torno a casa di sera vorrei parlare con i miei figli, ma il mio amico simpatico è lì a farmi rispondere a WhatsApp. E di notte, una volta tanto, vorrei fare l'amore con mia moglie, ma il mio amico simpatico è stato con me tutto il giorno e quando ripenso a lui e alle super gnocche di Instagram, mia moglie non mi sembra all'altezza e lascio perdere. Insomma, il mio amico simpatico, più che un amico simpatico, a volte è un po' troppo ingombrante, occupa abusivamente il mio cervello. Oh, di colpo mi accorgo che non posso più stare senza il mio amico simpatico e vorrei chiedere aiuto a qualcuno, ma non posso perché per strada, in metropolitana, in macchina sono tutti drogati come me. Anche perché la mattina dopo, quando mi sveglio, mi accorgo che a forza di guardare il mio amico simpatico non parlo più, ma grugnisco come una scimmia tecnologica, ma pur sempre una scimmia. A volte ho l'impressione che i ministri abbiano bisogno di farsi notare. Stavolta ho l'impressione che la ministra Fedeli abbia fatto così, l'abbia un po' buttata lì per far parlare di sé, per avere visibilità e qualche commento in più su Facebook. Non so se questa iniziativa andrà in porto. Se andrà in porto, forse un giorno la professoressa di italiano chiamerà alla cattedra l'alunno e gli dirà: alunno, parlami delle ultime notifiche di Jacopo Ortis. E comunque vada l'interrogazione, sicuramente l'alunno avrà su Facebook tanti, tantissimi like. Oh, come scrive un nostro ascoltatore, finalmente arrivato Manera. È buongiorno. Michele da Firenze. È sempre Michele da Firenze. Ragazzi, ma questa iniziamo a seguirla, questa storia. Sta iniziando così. Michele, raccontaci bene che tipo di sentimenti ti provoca Manera. Sì, noi Michele, vogliamo sapere di più. Anch'io sono curioso, Michele. Per me è la prima volta che ho un'esperienza di questo tipo e quindi vorrei approfondire l'argomento. E poi, e poi c'è anche l'ascoltatore. Tutti quelli che guardano con nostalgia al passato di Manera, lui non sopporta questa cosa, quindi glielo ricordo. Oggi ricordo i polacchi con nostalgia, faceva ridere, pensare, un grande. E Manera poi va al bar e dice: ma perché la gente mi ricorda quello che ho fatto? Cosa vorreste dire? Che i miei personaggi di adesso non sono... No. Anzi, sono sempre affezionato ai vecchi Kryptak e Petrektek, si chiamavano così. Esatto. Consiglio a tutti i film di Aki Kaurismäki, regista finlandese dal quale presi spunto per questi due personaggi. Vedi che ci ha raccontato questa cosa. Poi ci chiedono anche: Colto ha fatto il classico? No, credo che abbia fatto lo scientifico. Lo scientifico. Vabbè. E ci ha anche detto che non l'hanno mai bocciato ieri. Sì, ho rischiato in matematica perché a un certo punto il professore mi disse: sei un venditore di fumo. Cioè, non voglio sapere che cosa intendesse. Non me lo dire, tra l'altro. Nel senso che parlavo, ma magari poi non concludevo molto come studio. Malgrado te stai anticipando un argomento che si propinqua qui, qualcosa sul funambolo del giorno. Però prima c'è Sandro da Modena, dobbiamo poi andare al giornale radio. Sandro, che ci vuole dire? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Eccoci. Mi sentite? Benissimo. Sì, sì. Volevo parlare del signor Bianconi prima, lo chiamo signor Bianconi. Bene. Perché il fatto di pensare male, ma tante volte ci si prende, è proprio il discorso che invece il signor Bianconi dava come per scontato al negativo, cioè che per solo 600 euro al mese. Sì, la sua teoria è se uno fa il parlamentare e pensa a 600 euro a 65 anni, una volta mi disse è uno straccione, non è un parlamentare, cioè, no? Capisce? Parlamentare. Ma di 500, ma dato che il signor Bianconi non saprà anche cosa costa il latte, quindi sicuramente non sa neanche di quanto è la pensione sociale. Io oggi compio 55 anni, ho 35 anni di contributi, andrò in pensione con 44 anni e mezzo di contributi, quindi quando avrò 64 anni, e non so tuttora quello che prenderò di pensione dopo 35 anni di lavoro, perché non lo so ancora, e il signor Bianconi invece viene a dire... E bisogna essere delle teste di cazzo per pensare. Vabbè, non ripetiamolo. No, Sandro, abbiamo capito che dobbiamo andare al giornale. Ma lo radio. Possono dire tutti quella parola, tranne io. No, infatti. Una convenzione ad escludendum. Ma non tra è giusto. Nell'andare al giornale radio, Manera, sei un grande. Intanto che ti ascolto, il mio collega a fianco guarda le gnocche su Instagram. Allora. Tu sei bravo. No, ma che bravo. Sei bravo. No. Tu sei molto, molto bravo. Il segnale orario vi è offerto da. Sei in ritardo! Ma ho comprato le pizze Roncadin. Non sei in ritardo. Roncadin, nel banco freezer. State ascoltando un programma offerto da carserver.it. Scopri il noleggio a lungo termine che ci mette la faccia. I funamboli. Grace, tu sei la miglior giardiniera del mondo. Ho delle piante che sono molto malate. Sì, e dove sono? So che cos'è. Marijuana. Vabbè, un estratto dell'erba di Grace. Tu non ci crederai, Ale, ma io veramente non ho mai fumato marijuana in vita mia. Perché non so fumare, non ho mai, non lo so. Ma non mi è mai capitato. Neanche le sigarette, in niente, questo senso. Niente, zero, nulla. Beh, nulla, vabbè. Lunga vita a Manera. Non lo chiediamo a Veronica Gentili. Ma come mi dipingi? Ma no, nel senso, no. Ma io non fumo, non bevo, non mangio. Ho detto infatti non lo chiediamo a Veronica Gentili. Cioè, tu hai questa immagine di me, capito? Fricchettona, lì con lo spinello. Spinello, parola, capito? Anche vetusta. Come mi fai parlare? Cerco di adeguarmi a te generazionalmente, ma insomma. No, diceva non lo chiediamo perché è superfluo chiederlo, perché si sa, è evidente alla Palissiano che è una brava ragazza Veronica come Gentili. Come meno fumerebbe. E qui tutta la domanda sorge spontanea. Allora tutti quelli che fumano spinelli sono cattivi ragazzi? Ma no, però noi abbiamo un personaggio oggi proprio da perché ci ha incuriosito molto. Alle 10:07 minuti, questa è la seconda ora di Funamboli, diamo anche le coordinate sempre: funamboli@radio24.it per le mail, oppure 349-238-6666 i WhatsApp, perché è il momento del il funambolo del giorno. Come ha detto Veronica, abbiamo un signore che ha inventato, insieme ad altri soci, immagino, una iniziativa che, non storcete il naso, cari ascoltatori, si chiama così, marijuana legale. Di fatto è la marijuana legale. La sua iniziativa è Easy Joint. La chiamano marijuana legale, erba giusta o cannabis tecnica italiana. Questi sono i tre appellativi. E quindi è stata legalizzata in Italia la marijuana? No, vedi come sei precipitoso subito. Chiediamo tutto a Luca Marola, che salutiamo. Buongiorno Marola e grazie di essere con noi. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Allora, intanto cosa significa marijuana legale? Perché Easy Joint in Italia vende questo e poi ci dirà le vendite, perché pare che stiano esplodendo. Praticamente ha fatto un boom che dopo che oggi lo racconta, secondo me si mettono tutti a fare il suo stesso lavoro. Vediamo. Beh, allora, intanto la cannabis è legale in Italia se si rispettano i parametri che la legge sugli stupefacenti fissa. Quindi la cannabis in Italia è coltivata da parecchi anni nei campi, con un THC inferiore allo 0,2%. Ah, ecco, raccontiamo cos'è il THC, cioè il principio Il THC è uno dei quasi 100 cannabinoidi presenti nella cannabis, nella pianta di cannabis, ed è l'unico che è illegale. Ci sono tutti gli altri principi attivi secondari, come il cannabidiolo, il cannabigerolo, che stanno, insomma, la ricerca sia italiana che soprattutto straniera stanno anche trovando nessi tra la cura, diciamo, di determinate patologie e i principi attivi presenti nella cannabis. Ma è vero che in questa percentuale ha soltanto effetti sedativi? Non è, no, diciamo che è un alto contenuto del cannabidiolo, del CBD, che dà effetti rilassanti, meno rilassanti e in un certo senso sedativi. Ecco. Cioè, per non, capire, non Marola, voi producete, commerciate marijuana che è legale perché il principio del THC è inferiore a quello che la legge inferiore considera. Inferiore allo 0,2% e la canapa o la cannabis con un valore al di sotto dello 0,2% è considerata canapa industriale ed è coltivata in Italia e in gran parte dell'Europa. Ricordiamoci come l'Italia fosse il secondo paese produttore di canapa al mondo fino alla fine degli anni 60, il primo per qualità di canapa. Oggi la filiera della canapa si sta sviluppando e sta correndo, diciamo, come numero di ettari di aziende che nascono, spesso giovani, e noi abbiamo preso un prodotto che non aveva alcun valore commerciale, l'avete trasformato, certo, e l'avete trasformato. E questo ha attivato legge. Anche una filiera virtuosa, perché ho capito che voi utilizzate tutti questi agricoltori che coltivano la canapa e la utilizzate poi per i vostri prodotti, quindi in qualche modo anche il Made in Italy viene utilizzato per questo. Abbiamo scelto dall'inizio questa strategia, anziché produrci noi la canapa, abbiamo deciso di utilizzare e condividere, diciamo, il possibile successo che poi dopo abbiamo misurato c'è stato con appunto la filiera della canapa. Ricordiamoci che tipo l'anno scorso sono fallite parecchie aziende che si erano lanciate nella produzione da canapa da fusto, perché c'era il problema intanto di valore economico era bassissimo e in Italia non esiste un impianto di formazione completamente funzionante. Ma c'è un limite, un sostegno economico importante alle aziende che continuano comunque a produrre canapa anche per il fusto, per il seme, quindi olio, farina. Sì. Ma c'è un limite alla quantità che si può ordinare? Oppure chiunque può ordinare qualsiasi quantità, quanta ne vuole? No, ecco, esatto, c'è un limite. Allora, noi ovviamente siamo ospiti di questa trasmissione proprio per l'aspetto funambolico, penso, dell'esperienza. Certo. Sì. E quindi non essendoci una legge specifica sull'infiorescenza e una regolamentazione, perché durante l'iter di approvazione della legge è stata data la parola fiore dal testo di legge, noi ci basiamo su due testi, quello appunto di la 242 del 2016 sulla sostegno della filiera della canapa industriale e la legge sugli stupefacenti. La legge sugli stupefacenti determina il come si comporta il fiore quando esce dal campo. Okay. È droga o non è droga? Rispetto al limite dello 0,2 non è considerata droga. Sì. E per quanto riguarda l'acquisto, ossia la produzione, non si può superare un certo numero di milligrammi di principio attivo. Pertanto noi abbiamo messo un blocco, diciamo, al numero di barattoli acquistabili da un singolo consumatore, sì, proprio per evitare che lui detenga che sia troppo. Però Luca Marola, non abbiamo spiegato forse l'ABC, perché gli ascoltatori dicono ma dove si prende, come, cioè, Easy Joint cosa vuol dire? Cioè, uno come fa ad acquistare della marijuana legale? Poi dopo le vorrei anche chiedere, perché stiamo parlando di droga, anche se lei dice non è droga in questo caso, però già ieri sono accadute delle cose importanti, ad esempio. Ma dove si acquista? Cioè, come si acquista? Avete un sito? Abbiamo il sito, ma soprattutto consiglio di easyjoint.it. Easyjoint.it. Ma è vero che è stato, appena siete apparsi online, siete stati presi di mira? C'è stato un assalto e una quantità di richieste tale che avete dovuto chiudere il sito? Ma più che chiudere il sito è crashato PayPal Italia. Di conseguenza è esploso. Questo ci dovrebbe fare delle domande. Ma adesso le esigenze di chi vi chiedeva all'inizio il prodotto, cioè che genere, qual è il vostro consumatore tipo? Perché nell'immaginario collettivo uno dice saranno un sacco di ragazzi che vogliono sballarsi, invece? Invece non è così. Non è così anche perché la sensibilità dei media dimostrati sul raccontare questa esperienza dall'inizio ha chiarito subito che non sballa, proprio nei titoli degli articoli di giornale era non sballa, e quindi non abbiamo chi cerca però lo sballo. Dall'altra parte Marola, la questione è perché alcuni ce lo chiedono, allora che senso ha? È valore sedativo. Io ho letto che i primi che lo cercavano per problemi di ansia, di insonnia, addirittura dolori mestruali. Sì, il cannabidiolo, se in quantità sensibile, appunto, può aiutare chi ha questi disturbi in forma lieve. Non è cannabis terapeutica, sia chiaro, quella la si acquista in farmacia sotto prescrizione medica e ha quella principi attivi ben diversi rispetto alla nostra. La tipologia di clientela è questo, si va dai 30 anni in su, persone che un tempo magari fumavano le canne o gli spinelli, diciamo, e che ora non hanno voglia di rifornirsi dal mercato nero e dallo spacciatore e vogliono ricordarsi il gusto. È una questione, diciamo, di atteggiamento, insomma, no? È una cosa che parte dalla testa, come dire, continuo a farmi una canna anche se è legale in qualche modo, quindi parte, diciamo, da lì, dalla testa. Un'altra fetta di popolazione invece lo acquista dicendo comprerà, e questo è quello che ci fa più piacere, comprando Easy Joint compro un pezzo di legalizzazione. Ecco, perché certo, questo è un altro tema. Ovviamente immagino che lei sia per la legalizzazione. Sapete che è in corso un grande dibattito, c'è anche una proposta di legge che ovviamente non andrà avanti, come tutte le proposte di legge. Sono tutte quante lì a prendere un po' di muffa e sì, stanno lì insieme, ovvio, al biotestamento. Cioè, io, sapete, ho un po' di scoramento nei confronti della politica che possa decidere in maniera concreta su cose che possono piacere o no, ma che comunque interessano la gente. Però le conservano bene, guarda, si tengono, esatto, benissimo, stanno lì. Lei è per la legalizzazione, immagino, Marola? Sì, beh, diciamo, io sono un attivista, sono 15 anni che mi occupo di questo, nel tempo libero, ma anche nel tempo professionale, mi occupo di legalizzazione. Ero uno dei responsabili della raccolta firme dei radicali dell'anno scorso. Qualcuno chiede, ma risulterei positivo a un test antidroga? Allora, se i test che vengono utilizzati sono quelli che individuano soltanto il principio attivo, sì, e poi dopo ci sono altre analisi per capirne la quantità di principio attivo. Ma per esempio si può guidare? Quindi no, non si può guidare. Sì, perché... questo sì. Se risulta attivo al principio al test antidroga, non si può guidare. Ma poi verifichi in che quantità tu probabilmente hai assunto. Comunque un po' di lavorio intorno, ci sono altre analisi. Basta dall'analisi delle urine si vede una quantità di principi attivi. È meglio non guidare. È meglio non guidare, esatto. Mi assumo la responsabilità di non avere dei fastidi stupidi. Ecco, questo sì. Ma e invece ho letto che lei fa anche dei corsi, sta portando in giro dei corsi di autocoltivazione della cannabis in giro per l'Italia. Sì, ecco, visto che faccio attività antiproibizionista e mi piace, se da una parte abbiamo concepito a inizio anno il progetto di Easy Joint per scardinare un po' il sistema, da una parte, imporre e creare comunque un interesse generale sull'infiorescenza e normalizzare la pianta, dall'altra altre attività. Il Radical Cannabis Club, i radicali organizzano questi corsi di coltivazione di marijuana su pubblica piazza contro lo spaccio ed io sono il docente di, diciamo, marijuanologia. Ho scritto due manuali di coltivazione questo neologismo è notevole. Mi sembra un'altra strada per arrivare allo stesso obiettivo. Allora, facciamo così: noi, nel ringraziare Luca Marola, c'è un ascoltatore che dice: se a voi piace un mondo così, a me ma io non capisco mai l'atteggiamento, cioè non è questione di piacere o no un mondo, noi lo raccontiamo questo mondo. Poi a qualcuno piace, a qualcuno no, qualcuno sceglie che la cosa gli interessa, qualcuno dice non me ne importa veramente niente. Siamo funambole, quindi raccontiamo l'Italia in tutte le sue sfaccettature. Non vuol dire che se invitiamo una persona siamo d'accordo con lui o siamo contro di lui. Se la vostra preoccupazione è quella che adesso Alessandro Milan esce di qui e va a ordinare tutto quello che ha prodotto il signor Marola fino adesso, è una preoccupazione fondata, ma non succederà. Problema che c'è, è capitato un mio amico, l'hanno trovato con un po' di marijuana ed è finito in carcere. È vero che erano 50 kg, ma lui ha detto che per uso personale. Vabbè. Poi anche il concetto di uso personale, un concetto relativo. Andiamo senza, al traffico. Sei in ritardo. Ma ho comprato le pizze Roncadin. Non sei in ritardo. Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta... i funamboli. Allora, le 10:20 minuti, siamo qui, funamboli, è stagione. Ale, metti giù quella canna che ti stai facendo, Ale. Dai, adesso siamo in onda. Dai, che sta arrivando il direttore. Vabbè. Smettetela. Alle 10:20 minuti, passa allora. Passa un po', Leonà. passa. La finite. La finite. Allora, guardate che è ancora estate di fatto, perché sta finendo, si va molto per montagne e giustamente c'è un tema molto serio, che è quello di approcciare la montagna con la giusta condizione, con la giusta mentalità. Cautela, intelligenza e rispetto, esatto, per la natura, che viene spesso sottovalutata, e poi i risultati sono nefasti. I risultati nefasti ci sono, perché qualche giornale ha raccontato anche in maniera ironica tutte le telefonate che arrivano al soccorso alpino, ma telefonate del tipo: scusi, sono salita con i tacchi a spillo, mi venite a prendere con l'elicottero? Io sarei andato, una con i tacchi a spillo, esatto. Oppure con l'elicottero. Fa tanto così freddo, piove, ci portate gli ombrelli, per favore. Ieri leggevo anche di una famiglia invece di sudamericani che è salita in sandali. Sono saliti tutti quanti, bravi, vestiti d'estate con le valigie e i sandali, e poi sono arrivati su. Il signore che era nella baita, nel rifugio, ha detto: fermi, non potete riscendere. Avevano anche dei bambini, certo, e chiaramente hanno chiamato il soccorso alpino. Allora, Roberto Rossin del Club Alpino Accademico Italiano, buongiorno e grazie di essere con noi, Rossin. Perché eccoci, Rossin, ci sente? Eccoci, del CAI. Allora, ma no, ieri stavano per chiedermi. Che cosa? Rossin, siamo in diretta, ci sente? No, mi sa che non, no, ci, non sente. Ci sente. Andiamo da... Prima di dire cose dalle quali non ci sarà ritorno, Rossin, si fermi. Allora, salutiamo il nostro grande scrittore Mauro Corona, nonché alpinista, scultore. Mauro, buongiorno. Buongiorno a voi, bentornati. In montagna, grazie. Proprio lo troviamo in montagna in questo momento. Mauro, che gli faresti tu a quelli che chiamano in tacchi a spillo? Beh, innanzitutto gli farei pagare l'elicottero, che sono... parecchi soldini. Sì. E poi non è che si risolva la questione così. Sì, io sono anni che predico che bisogna mandare nelle scuole le guide alpine, i contadini, gli artigiani, i camminatori, e insegnare a questi futuri frequentatori della montagna, insegnare a muoversi. A muoversi, Ma uno che va in tacchi a spillo, ma perché uno sale in tacchi a spillo? Sale, dice, fa freddo, scopre che a 3000 metri fa freddo, ma signori. Perché pensano di essere in vacanza. Vedi, Corona, che facevo bene a dare i gradi, le temperature delle città. Io penso che le montagne siano troppo alte, dovrebbero essere un po' più basse, così si può andare in tacchi a spillo. Ma soprattutto, ma perché non le riscaldano le montagne? No. Non capisco. No, ma Mauro, come mai succede questo perché nel 2017? Negli ultimi 10 anni c'è stata una frequentazione centuplicata di coloro che andavano prima in montagna. Prima c'era quattro gatti, adesso vuoi la pubblicità, che hanno anche la pubblicità, ha fatto vedere le montagne, ha fatto vedere gente che arrampica con la corda di traverso, ad esempio, cioè, c'è una cattiva informazione. Poi c'è stato anche ultimamente a Braies, non si può più passare perché c'è stato il film A un passo dal cielo, quindi la gente si è trovata a dire: ah, ci sono anche le montagne, aspetta che ci andiamo, con un'improvvisazione che fa paura. E questo lo si risolve con effettuando dei corsi, ma anche lì sul posto. Ad esempio, non so, prendiamo una montagna qualsiasi, non voglio fare nomi o pubblicità, lì ci deve essere un ufficio, no? Inventare questa cosa in cui gli sprovveduti devono passare da lì, e allora lì c'è una guida che dice: guardate che oggi non è caso, lì c'è questo pericolo, lì c'è quell'altro. Per esempio, gli acquazzoni improvvisi oggi sono un rischio veramente grande, certo. E quindi informare. Ecco, ci vorranno anni. Allora, abbiamo recuperato Roberto Rossin, buongiorno del CAI, adesso ci sente, Rossin? Sì, eccoci, sento, sì. Che tipo di richieste arrivano? Davvero ne arrivano di così assurde? Cioè, i tacchi a spillo, portateci l'ombrello in elicottero, ci sono? Ecco, come diceva Corona poco fa, purtroppo il numero delle persone è aumentato e sono pochi quelli che si preparano per bene, che si informano, che chiedono prima di partire. Insomma. E quando arrivano queste telefonate, voi come reagite? Beh, cioè, premesso che non sono del soccorso alpino, no, però purtroppo il soccorso alpino deve intervenire perché sennò è missione di soccorso. Ma come? I tacchi a spillo? In quel giorno, quel 6 di agosto, che c'è stato quel morto in Marmolada, ecco, io lì c'era da allibire, perché bisogna partire dal presupposto che la montagna, lo stereotipo dice la montagna uccide, la montagna assassina. No, la montagna sta lì, la montagna non fa niente. È l'uomo che va a farsi del male lì. Allora, quel 6 agosto famoso, c'erano le previsioni meteo, già da alcuni giorni che davano una giornata, una domenica orrenda, temporali, eccetera. Quelle due persone che sono andate in Marmolada, mi rifiuto di credere che erano inesperte completamente, perché per andare sulla ferrata, la cresta ovest a Marmolada, bisogna avere un certo un po' di esperienza. Per cui sicuramente le previsioni le hanno viste. Sono andati lo stesso, per cui la mia battuta sul giornale, ognuno è libero di suicidarsi come vuole, è molto dura, in questo senso. Il problema qual è? Che questi mettono a repentaglio la vita dei soccorritori. Certo. Perché il soccorso alpino, quando è arrivato là, sulla cresta... Deve intervenire, è chiaro. A 3.000 metri, in mezzo ai fulmini, con raffiche di vento spaventose, dentro ogni elicottero ci sono almeno 3-4 persone. Ma Rossi, queste persone non andrebbero sanzionate anche, no, per chiamata inappropriata o procurato allarme? Bisognerebbe far pagare il soccorso alpino, l'elicottero, a prescindere, che almeno gira la voce e la gente non è poi così tranquilla a chiamare il soccorso alpino per ogni stupidaggine. Perlomeno si mette un freno, perché la mentalità sembra essere quella di tanto c'è l'elicottero, male che vada chiamiamo l'elicottero. Perché poi ci sono le domande assurde, appunto le telefonate paradossali. È la nostra società di oggi, che tutto è consumismo, tutto in sicurezza, che tutto, la montagna non può essersi, la natura non può essere Mauro Corona, hai avuto momenti di difficoltà in arrampicata? Perché poi ci sono, al di là del sapere tutto, informarsi, prepararsi, però poi quando ci si trova lì in montagna le difficoltà accadono, Mauro. Problemi che ho avuto mi sono stati inferti dai temporali. Sono anche fatto voli, mi sono rotto una caviglia, mi sono rotto l'ecco, però erano vie estremamente difficili, però me la sono cavata sempre da solo. Però... Perché ho avuto la fortuna di essere su una parete non alta, insomma me la sono cavata. Ma i pericoli della montagna sono oggettivi, i temporali, i fulmini. Io ho visto delle scene da inorridire sul sentiero tra i cadini di Misurina, un sentiero impervio con delle corde fisse d'acciaio, una famigliola con un bambino di 3 mesi nello zainetto. E cosa gli dici quando li incontri? Io gli ho detto: ma siete pazzi, viene in temporale, siete mo', avete un ombrello, qualcosa? No, non abbiamo niente. Che ecco, questi si erano avviati, io ho ammirato anche la loro, che non era, è follia quella, non è coraggio. Ma perché se viene in temporale, quel bambino lì ci lasciava la pelle e forse anche i genitori. E quindi bisognerebbe dire, quando avere questo confine, quando uno parte, dite lei dove va, avere un corpo, sì, qualcuno che quasi qualcuno che dice lei dove va, vado a fare il sentiero di Rissini con quelle condizioni lì, no signore, lei non deve neanche fare un passo, a meno che non si attrezzi di questo. Io non sono esperto di montagna, per esempio, e a me farebbe piacere, quando e se vado in montagna, trovare proprio l'ufficio sprovveduti. Mi farebbe piacere che mi informano sulle difficoltà, sui possibili pericoli, no? Magari... Questo è il futuro, di per evitare, non tutti, ma qualche incidente lo si può evitare così. Ma io per esempio pensavo che in casi estremi, cioè di telefonate, venite a prendermi perché fa freddo, non ho i vestiti, che ci fosse un pagamento di questo servizio. Rossin, non è così? Cioè... Ma credo che ci sia un piccolo ticket, ci sono stati dei casi del soccorso alpino che ha chiesto il rimborso dell'elicottero, ma poi ci sono cause, eccetera. Dovrebbe essere legiferato in qualche modo. Insomma. Però veramente l'aspetto più increscioso è mettere a repentaglio la vita dei soccorritori a volte. Tenga presente che sono volontari, a parte il pilota sarà pagato, ma il medico, il soccorritore, l'alpinista, sono dei volontari. Che poi non possono neanche sottrarsi al capriccio di qualcuno che li chiama, perché poi nel momento in cui la persona è realmente parte, è un pericolo di vita, è un servizio pubblico, per cui devono andare. In ogni caso, noi ringraziamo Roberto Rossin. Mauro Corona, ci vuoi regalare una perla finale sul momento politico che tu osservi sempre dal tuo punto di osservazione interessante? È la fase, questa qui è la fase di rincorsa all'indietro per poter partire e fare il balzo avanti. Nel frattempo si sbranano. Si sbranano. Sono un po' come i turisti che salgono in montagna con i tacchi a spillo. Bella una cosa, la rincorsa indietro per fare il balzo in avanti. E chi si sta sbranando secondo te di più? Ma adesso è saltato fuori il mite Pisapia. Cioè ognuno vuole essere protagonista, fa finta di dare una mano per unire il gruppo, metti il PD, però poi ognuno si vuole ritagliare la parte di protagonista. Adesso va di moda Pisapia, il mite Pisapia, che sembra poverino in balzo. secoli come... Perché è, è l'ombrosiano, Mauro Corona. Guardate che bisogna rivalutare l'ombroso. Guardate Pisapia. E cosa sembra, non lo so, quegli gnomi che escono dal bosco e si stupiscono che c'è l'umanità. Pisapia, lo gnomo che, ma no, dai, quello che si stupisce. Pisapia o dello stupore? Dello stupore, lo gnomo che è bello, esce dal bosco e si stupisce che esista l'umanità. Guardate questo paese. Non avrei mai pensato a una cosa del genere. Va bene, dai, ringraziamo anche Mauro Corona. Dobbiamo andare in pubblicità. Poi ci sono tante. Ah, oggi iniziamo. Sapete che iniziamo a chiamare un ascoltatore che sta all'estero? Ci segue dall'estero? Dove? Da San Marino? No. Ci ospita? No, da un po' più lontano. Dai, 10:31 minuti, rientriamo tra un attimo. I funamboli. Oh, well, everybody's heard about the bird. Ma siete buonisti all'ennesima potenza, non se ne può più sentire di parlare di extra comunitaria, di Ius Soli. La Ius Soli non è passata, fatemi una ragione. No, io non sono buonista, Veronica Gentili, un po' sì, io buonista. Sono agnostico. Buonista! Quanto gli piace dire che è agnostico. Sapesse da stamattina quante volte me l'ha detto che lui è agnostico, che lui è attraversato dai dubbi. Francescano. Tu hai in casa dei tappeti persiani, buonista. No, io ho detto sono al 90% agnostico, per essere preciso, no? Se vai a vedere la chat, perché io e Veronica ci scriviamo ovviamente nella chat. Dovete sapere, è importante, che noi ci scriviamo. Voi due, a mia insaputa, avete dei rapporti epistolari. Sai, non possiamo mica, sai che poi le dinamiche del trio sono sempre un po' perverse, no? Allora, le 10:38 minuti, siamo i funamboli, 800 24 00 24. C'è Jerry da Milano, Jerry. Ci chiama Jerry. Buongiorno, eccoci. Devo dire che apprezzo sempre le vostre trasmissioni, sono fantastiche. Ma bene. Stamattina vorrei dire una cosa un po' contraria. C'è un ma, sento un ma. Sì, questa premessa è una leccata prima di della bastonata. Prego, Jerry. No, vorrei dire che mi sembra abbastanza una grande ipocrisia dire, pubblicizzare, coltiviamo la cannabis, facciamoci le canne e poi non andate in macchina, non guidate la macchina. Mm. No, facciamoci le canne, è marijuana legale, è una ce la contea. Allora, io vi dico solamente una cosa, a parte fatto che ho 55 anni, ho 4 figli, so di cosa sto parlando abbondantemente. Sì. E a parte l'uso terapeutico della marijuana che è un'altra cosa. Che è un'altra cosa, però se voi fate un giro in qualsiasi piazza in Italia, di Spazio, di Veneto, senza andare lontano, andate a Rogoredo, a Milano, chiedete a tutti i ragazzi come sono finiti lì e sono veramente dei ragazzi senza speranza, con pochissima speranza in fin di vita, tutti vi diranno che abbiamo iniziato con le canne, tutti ve lo diranno, tutti dal primo all'ultimo. Quindi fare una pubblicità del genere, secondo me è sbagliato, fa male però... ai ragazzi che sentono questo messaggio. Guardi, più che una pubblicità, noi abbiamo raccontato un fenomeno che centinaia di migliaia di italiani già conoscono, perché non ce l'ha detto Marola, ma appunto vanno in tilt per le richieste di questo prodotto. Sì, quindi, il fatto è quello. Io personalmente, come dicevo prima, non ho mai utilizzato, non mi sono mai fatto le canne, però c'è tantissima gente che ne fa uso e se è dentro i limiti di legge non glielo si può impedire. Non è che stiamo a fare pubblicità alle canne. Fa sempre fatti dei parte dei racconti, cioè tra le cose che gli italiani chiedono e di cui hanno desiderio. Poi uno può pensare che sia giusto o non sia giusto. No, uno non dovrebbe fare un'inchiesta sulla pedofilia perché è un incitamento alla pedofilia, giammai, ma se c'è un fenomeno che uno racconta, fare il giornalista è questo. Ma sono dei fenomeni che fanno parte appunto della cultura di un paese, poi le opinioni si dividono, insomma, come su tutti gli altri argomenti. E il bello è che noi le accogliamo tutte. Grazie Jerry, andiamo a Roma da Goffredo, buongiorno. Goffredo. Non sentiamo niente, sentiamo noi che parliamo. Goffredo, anche con un po' di... Eccolo. Eccoci, Goffredo è arrivato, c'è un ritorno lunghissimo da Roma, questo paese lontano. Goffredo, buongiorno. Buongiorno, una piccola esperienza personale. Sì. 4 anni fa ero a 2300 metri d'altezza in Alta Badia e mi sono sentito male. Mia moglie ha chiamato l'Eli Soccorso e l'Eli Soccorso, prima di decollare, ha detto: signora, sappia che nell'Eli Soccorso c'è un medico, se il medico non rileva che suo marito sta male... Noi vi portiamo giù, ma voi pagate 2500 euro di trasporto dell'elicottero. Questo volevo dirvelo perché ho sentito dire piccoli balzelli, piccole quote. No, sono molto precisi e se tu non stai male ti fanno pagare il trasporto in elicottero, che sono diverse migliaia di euro. E lei stava male? Non lo trova giusto? Sì, io stavo male, ho avuto uno spasso di pressione, infatti sono salito in elicottero, sono stato tenuto monitorato dal medico fino all'atterraggio a e non ha pagato, e non ha pagato. No, non ho pagato perché stavo male. Quindi dalla sua testimonianza chi chiama perché c'ha i tacchi a spillo, perché vuole l'ombrello, paga. Paga. Comunque se chiami che c'hai i tacchi a spillo non salzano neanche in volo, ve lo dico io. Ma effettivamente forse quella è un'estremizzazione, ma ci sono persone che dicono sto male, ho freddo. Sì, cioè, però questa discriminazione contro i tacchi a spillo, insomma, è un po' fastidiosa. Adesso noi non vogliamo entrare nei tuoi feticismi, Leonardo. Va bene. Per favore. Alle 10:42 minuti abbiamo fatto un grande appello che sta riscuotendo molto successo. Cari italiani che ci ascoltate dall'estero, italiani! No, mi sono fatto prendere un po' la mano. Guarda che cos'è a rischio, eh. Ascoltatori, scriveteci a funamboli@radio24.it o a 349-238-6666 perché noi vi chiamiamo in onda. Senti questa versione di Prince, ragazzi. E qui viene fuori la tua anima rock. Beh, a me non ho amato tantissimo Prince, non è, però. Quindi ha un'anima, perché se è rock deve avere anche un'anima. Come suonava la chitarra, signore. Questa non è di Prince? Benissimo. Però non è lui che smentito clamorosamente. No, è Purple Rain di Prince, ma non è suonata da lui in questo. Come suonava la chitarra non è sua questa. No, ti ricordo che è alla domanda a Eric Clapton, allora, il disprezzo con cui l'hanno guardato dal di là del vetro. È brutto e triste ricordarvi che a Eric Clapton, quando hanno chiesto chi è lei il più grande chitarrista del mondo, Eric ha detto: no, scusate, il più grande al mondo è Prince. Però questo non è Prince. E tu che hai proprio la misura e il polso da intenditore, no? Il prossimo allora, critico di Rock Italia, Alessandro Miro. Noi chiamiamo qui gli italiani all'estero perché la radio è magia, la radio è racconto, la radio arriva in tutto il mondo. Per esempio arriva da Enrico. Buongiorno Enrico. Buon pomeriggio per me. Buon pomeriggio. Dove ti trovi? Dove sei? Allora, nord del Giappone, Hokkaido, Muroran, quindi costa ovest. Hokkaido, che ci fai a Hokkaido? Perché ti hanno relegato là? Perché sei in esilio ad Hokkaido? Cosa hai combinato, Enrico? Come va Enrico? Tutto Hokkaido? Più in Italia. Tutto Hokkaido. Va bene. L'ho freddato, è tutto Hokkaido. L'abbiamo freddato, sparato non c'è in più. Fronte, non adesso ti preoccupare. Non è... Basta. Che ci fai lì, Enrico? Niente, io sto seguendo una parte di lavorazione di un progetto per delle centrali nucleari. Ah, che in Giappone sono molto diffuse, lo sappiamo. Sì. No, questo va in Europa, solo che hanno deciso di farsi fare i componenti in Giappone e quindi sono dovuto venire. Esatto, perché il nucleare in Giappone è una realtà. Onde evitare rischi in Europa. No, esatto, il nucleare è una realtà. Quindi sei andato a studiare da ingegnere nucleare per portare poi i progetti? No, sto effettivamente lavorando io qui. Lavoro, sono ispettore qualità in negli impianti per il nucleare. Esatto. Per poi portare questo sta venendo fatta qui e dopo viene trasportata via nave a Trieste, viene finita la fabbricazione e vengono installati in Francia. In Francia, ecco, immaginavo il paese nucleare europeo per eccellenza è proprio la Francia. Ma Enrico, quanto dura l'esilio? No, ma dai. Ma l'esilio è durato un mese a luglio, adesso più o meno un altro mese, settimana prossima riesco a tornare a casa e poi probabilmente devo partire di nuovo. Qual è la cosa che ami di più del Giappone? Esatto, il Giappone lo ami perché? No. Dici una cosa bella, Enrico, una. Così no, bleffare Enrico, bleffare. Una cosa bellissima, per quanto mi riguarda il fuso orario. per quanto mi riguarda il fuso orario. Che cosa vuol dire? Scusa, non ho nessuna, perché non ho nessuna distrazione da parte di amici, conoscenti, famiglia, mentre lavoro, ma posso concentrarmi nella sera. Perché quando tu dormi loro sono svegli e viceversa. Da che si deduce che non hai un ottimo rapporto con la tua famiglia, diciamo. No, anzi. Anzi, davvero stacanovista, finché stai lì vuoi lavorare, quindi dici se dormono non posso lasciarmi tentare. Però è interessante, Enrico, che pensi dell'Italia vista dal Giappone? Almeno di cosa parlano i giornali oggi? Avrai chiesto a un collega, perché non dirmi che sei il giapponese, non ci crede nessuno. Di cosa si parla in Giappone? Guardando i telegiornali, le uniche notizie purtroppo che arrivano dall'Europa sono quelle relative ai migranti. Arrivano anche lì. L'unica cosa che riesce a fare una sufficiente risonanza per quanto riguarda l'Europa, per quanto riguarda gli Stati Uniti, l'uragano. Vabbè, poi si parlerà della Corea del Nord. Lì si parlerà, dico, Kim Jong-un imperverserà, sarà su tutti i giornali. Sì, ovvio. Non chiedermi cosa ne dicano, perché no, non questo capisci perché, niente. Per carità, serve l'interprete. Ma parliamo di sushi. Mi sto isolando. No, un momento, è inutile che c'hai fretta. Parliamo un attimo di sushi. Voglio sapere, ma il sushi è come quello in Italia? No. Lo vedi? Cioè, le domande buono, serie. È più buono? No, guarda. Sì, no, cioè... Sì, ho anche la fortuna di stare vicino ad un porto, quindi il pesce arriva effettivamente di giornata. Va bene, almeno il pesce buono. Sì. Vabbè, Enrico, ti ringraziamo da Hokkaido, Giappone. Ascolta i funamboli! Hokkaido! Niente. Ma non gli avevo sparato io a Manera? E risorgono sempre sul finale del film. È un classico. Lazzaro la mano Manera. Si muove. Faircam Air & Ocean. Spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com. Vi presenta i funamboli. Eccoci qui, all'ultima parte di Funamboli, 10:48 minuti, caro Leonardo. Questo ascoltatore dal Giappone mi ha fatto pensare che tanti italiani sono costretti ad andare a lavorare all'estero, e allora io ho deciso di scrivere una lettera all'unica persona che secondo me può completamente risollevare le sorti dell'Italia. Ah, chi è? In un periodo di profonda crisi come quello che stiamo vivendo, io mi rivolgo a te, che sei l'unica persona in questa Italia in difficoltà che con la tua autorevolezza e la tua profonda sensibilità puoi far ritrovare agli italiani una dirittura morale. Questa persona sei tu, Maria De Filippi, la più amata dagli italiani, l'unica che spesso al sabato sera dagli schermi di C'è Posta per Te si occupa dei problemi veri degli italiani, senza pudori, finzioni, senza lacrime. Tu, Santa Maria De Filippi, sei l'unica che capisce tutto, sei l'unica che capisce anche quando parla tuo marito Maurizio Costanzo, sei l'unica che ha veramente creato lavoro per gli italiani, inventando dal nulla migliaia di tronisti e troniste che poi si guadagnano il pane quotidiano col sudore della fronte facendo autografi in discoteca. Sei l'unica che sa interpretare e promuovere gli umori più profondi degli italiani, dando voce anche ai protagonisti di Temptation Island. Sei l'unica, Maria De Filippi, che ha inciso anche sulla cultura, sulla storia italiana. Infatti, se oggi si chiede chi fu il successore di Costantino, in molti rispondono Daniele Interrante. Conosciamo la storia e lo dobbiamo a te, Santa Maria. Sei l'unica, infine, che ogni giorno dà voce a personaggi irrinunciabili per comprendere la realtà, come Tina Cipollari, oracolo di sobrietà e saggezza. Tu, Maria, hai condotto anche il Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti e sono state le prime prove di un governo di unità nazionale. Per questo, Santa Maria, io mi rivolgo a te, candidati alle prossime elezioni e fonda il PDIMDF, Partito di Maria De Filippi, e avrai il nostro, il mio voto, perché sei l'unica che dell'Italia e degli italiani ha capito veramente tutto. PDIMDF. Beh, un buon partito, il nostro Leonardo Manera. Secondo me non devi dare tanti spunti, perché not a bad idea. C'è Carlo che ci chiama da Venezia. Signori, siamo quasi in chiusura e con la puntata dei Funamboli. Carlo, buongiorno. Benissimo. Buongiorno. Niente, volevo solo raccontare a proposito di spreco pubblico, perché alla fine quello mi sembra di che si tratti gli elicotteri, l'uso improprio che se ne fanno. Circa un anno e mezzo fa i pompieri di Venezia sono stati chiamati in soccorso di una vacca in Friuli, una mucca, che si era un po' il luogo impervio, si era persa e c'era ferita, e ho dovuto soccorrere la mucca con un elicottero dei pompieri da Venezia fino in una zona impervia di Friuli. Ma i soccorsi chi li ha chiamati? La mucca? Qualche animalista si arrabbierà, però insomma, quei soldi che non riusciamo neanche a pagare la carta igienica ai nostri figli alla scuola, dobbiamo farlo noi. Povera mucca, ma che magari si era persa, magari era lì nel suo momento di libertà. Si è mosso a compassione per la mucca. È stata la fiorentina più cara del mondo, perché dopo che l'hanno portata giù, dici perlomeno la facciamo pagare sta fiorentina. Esatto, adesso che l'abbiamo portata giù è scesa, adesso perlomeno i prezzi valutiamoli in base all'elicottero, perché... Vabbè, insomma, Carlo da Venezia ci ha raccontato questa vicenda della mucca sulle montagne friulane. Ma lei come fa a sapere questa cosa, Carlo? Era sul Gazzettino, è stato un intervento encomiabile da parte dei vigili del fuoco di Venezia, è stato apparso sul Gazzettino, fantastico. Bene, bene. Mi fa piacere pagare le tasse per questo. Va bene, Carlo da Venezia. Ha detto anche mi fa piacere pagare le tasse per questo. Segnaliamolo. La ringraziamo per questa segnalazione. Va bene, cari ascoltatori, qua ormai siamo quasi... Figurati, io gli ho detto, ormai... porcaccia miseria, non mettete Bob Marley il mio mito, che poi la gente dice, ecco, le canne Bob Marley. Ormai ti sei creato questa immagine. Che ti danno dello sfascione che si ammazza di canne ecco, dopo. Ecco, vedi, Veronica Gentili, ecco, subito pensi associa. Pensi che ti dicono che stai con la cafia nei centri sociali e ti fa un sacco di canne. Sei completamente fuori, Alessandro. Un uomo che ha portato il reggae nel mondo. Ti sei dipinto l'immagine del conduttore, quello che si è morigerato, pieno di dubbi, agnostico, capito, che stai nella radio di Confindustria e poi ti ammazzi di canne. Sei troppo fuori, mi piace un sacco. Fatemi salutare Peter Bescapè in regia e in redazione Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, Elisa Pancaldi, questi sono i Funamboli. E adesso vatti a studiare un po' di Prince, che sennò domani ne dici qualche altra di eresia, quindi vai a casa e studia prima di fare il critico musicale. In religioso silenzio vi lasciamo a Bob Marley, signori. Sono andato in Giamaica a toccare il letto dove nato. Ah, questo è vero, è la verità. Sono arrivato sciocchina lì a toccare il letto. Ho qui visto nato. Le foto, è vero. È vero. Ciao. You